prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Ben ritrovati ancora da Mirko Cavallin. È stato pubblicato in questi giorni il report di valutazione del Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro, edizione 2015. Lavoro di ricerca curato dalla Fondazione Manuela Zancan con il direttore Tiziano Vecchiato, i ricercatori Giulia Barbero Vignola, Maria Bezze e Daniele Salmaso. Molte le persone intervistate di diverse parrocchie, vicariati, centri di ascolto delle povertà e delle risorse e anche tanti operatori che hanno partecipato ai focus group. L'intero documento, sono una quarantina di pagine, disponibile sul sito caritaspadova.it. Ve ne leggiamo un breve estratto, un lavoro che fa sintesi del percorso di valutazione del Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro nella sua terza edizione 2013-2015. L'approccio questa volta è stato differente: verificare i risultati coinvolgendo gli stakeholders, cioè le persone coinvolte, utilizzando modalità qualitative per valutare l'esperienza del fondo in dialogo con gli enti e le persone che vi hanno aderito, in modo da avere un quadro più ampio e complessivo. Coinvolti quasi 60 testimoni privilegiati con interviste e focus group appartenenti a più di 40 organizzazioni. Sono finanziatori, organizzatori e realizzatori. Hanno fornito utili indicazioni per dare una prospettiva di potenziamento e miglioramento. Chi sono le quasi 6.000 persone beneficiarie del fondo? 60% sono maschi, 40% sono femmine. 8 beneficiari su 10 sono italiani. Più della metà ha un'età compresa fra i 36 e i 55 anni. Le donne in genere sono più giovani degli uomini, così come gli stranieri sono più giovani degli italiani. Poco più della metà ha un livello di istruzione basso. Quasi la metà è celibe, il 29% vive con i genitori, il 25% con il coniuge e con i figli. Gli operatori spiegano che sono prevalentemente persone all'ultima spiaggia, prive di risorse personali, familiari e ambientali, che però hanno voglia di riattivarsi, principalmente attraverso un lavoro che gli consenta di vivere e ritornare ad avere dignità. Ci sono i casi sociali che negli anni hanno accumulato problemi e rendono ardua la risalita dalla china, ma ci sono anche coloro che possiedono risorse umane, familiari o anche economiche a cui basta una spinta per rialzarsi e non cadere nel baratro. È uno spaccato di umanità in disagio a causa della crisi economica e finanziaria di questi anni, che non ha risparmiato neppure il Nord-Est, da tempo ritenuta la locomotiva economica dell'Italia. Chi si rivolge agli sportelli della solidarietà si attende di trovare un lavoro che gli consenta di riprendersi la dignità persa e garantire la sopravvivenza economica a se stessi e alla propria famiglia. Per tanti è stato possibile finanziare una borsa lavoro, dei voucher, una dote lavoro, un progetto di reinserimento. Per alcuni è stato più facile, per altri meno, se non addirittura impossibile. Questo è dipeso dalla condizione di partenza, determinata da un mix di problemi e di risorse che ciascuno portava. Una persona su 5, è uno dato prudenziale, ha proseguito poi il rapporto di lavoro al termine dell'aiuto fornito dal fondo. Alcune stime invece danno un dato più alto, cioè 2 persone su 5. Risultati comunque positivi che incoraggiano a proseguire e a porsi dei traguardi più ambiziosi. Per il 75% delle persone intervistate, come detto, i volontari, gli operatori, i finanziatori di questo fondo, coloro che ne hanno beneficiato attraverso l'esperienza lavorativa hanno acquisito capacità e abilità. Il sostegno economico offerto dal fondo, lo ricordiamo, è temporaneo e di entità contenuta. Tuttavia, per il 91% degli intervistati ha prodotto miglioramento della situazione economica dei beneficiari. È un aiuto rilevante, quantomeno nel breve periodo, per fronteggiare le necessità più urgenti ed essenziali per vivere, come pagare le bollette o l'affitto. Davvero, alle volte, appunto, basta un piccolo aiuto, anche limitato nella sua quantità. I testimoni affermano poi, in modo molto diffuso, che il fondo funziona bene perché le procedure sono facili e consente di alimentare la rete di chi si occupa di lavoro e di povertà. Lo ritengono uno strumento del welfare locale che ha sostituito quelli tradizionali, cioè gli aiuti assistenziali, colmando i vuoti di risposta. Ci sono però degli aspetti da migliorare ovviamente nel processo di funzionamento del fondo e principalmente è stato evidenziato questo, la necessità di un maggiore coinvolgimento delle aziende attraverso un'azione di promozione e informazione più efficace e capillare nel territorio, la riduzione dei tempi, l'attivazione, l'inserimento o anche il pagamento. L'allungamento dei tempi infatti rende gli aiuti forniti meno efficaci. Incrementare poi e stabilizzare le risorse disponibili in modo da aumentare la platea dei beneficiari e garantire loro un maggiore aiuto economico. Per certi versi positiva, per altri versi critica invece è la questione del limite temporale del beneficio del fondo che consente il turnover ma limita la possibilità di affrancamento definitivo dalla situazione di disagio economico. Altra questione è la compartecipazione economica richiesta ai datori di lavoro. Vengono certo responsabilizzati ma alcuni la ritengono non sostenibile. Il fondo straordinario di solidarietà è stato possibile grazie ad un lavoro di rete realizzato in questi anni, vero esempio di welfare community in cui ognuno ha messo a disposizione le sue risorse finanziarie oppure organizzative oppure umane. Per metà degli interpellati l'organizzazione a cui partecipano ha incrementato le relazioni con i soggetti del territorio. I dati appunto messi a disposizione, le modalità utilizzate, le risorse mobilitate, i numerosi destinatari raggiunti possono far dichiarare tranquillamente che il fondo una grande opera sociale. Perché? Per tre motivi. È un esperimento riuscito per le risorse che ha raccolto e reso disponibili, perché ha degli indici di efficacia significativi e anche per il metodo e la strategia. Inoltre è a servizio dell'innovazione sociale perché ha affrontato un problema oltre le singole organizzazioni, ridando speranza a molte persone, a molte famiglie, valorizzando l'apporto della rete, in particolare quello del volontariato. Infine, capace di mettere a sistema soluzioni inedite con pratiche che da straordinari diventano ordinari facendo tesoro delle valutazioni e condividendo su scala più ampia, su scala sociale, i risultati e le potenzialità. Tutti i dettagli di questo report, appunto di questo rapporto di valutazione sulla qualità del Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro edizione 2015 sono a disposizione sul sito caritaspadova.it. Avete ascoltato? Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.